fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Le 3:22 del mattino, martedì 1 gennaio del 2019, continuiamo il nostro lungo e interessante racconto di questa serata che ormai è diventata nottata, e lo facciamo con altri ragazzi, altri ospiti, altri festeggiati, perché alla fine stasera siamo tutti festeggiati dal primo all'ultimo, alla ricerca non si sa di cosa. Vedremo se questi ragazzi hanno un obiettivo, una speranza, un desiderio per questo nuovo anno che sta arrivando. Intanto iniziamo conoscendoli meglio. Certo, vai. Siamo due gemelli. Ah, beh, per parte noi. Ok, Diego. Sono Diego, mio fratello. Io Claudio. Diego e Claudio, ok. Mi accompagnano due nostri amici, Roberto e Gabriele. E Gabriele, molto, molto bene. Da dove venite, ragazzi? Andiamo da Sergnano, in provincia di Cremona. Ok, giovani vedo, quanti anni avete? Sì, noi 27, sui giochi ce n'è. 27 e 20? Ok, ok, ok. Allora, cosa fate qui? Nel senso, un gruppo scelta, di... Scelta all'ultimissima, perché siamo venuti a Tenerife. Ah, avete fatto un weekend lunghissimo. Una settimana bella. Infatti, vi stavo già bacchettando perché è sbagliato organizzare il Capodanno all'ultimo. Bisogna organizzarsi per tempo, perché sennò hai il rischio di rimanere a piedi. Però siete giustificati, perché siete tornati venerdì. Quindi avete avuto tre giorni per pensarci. Prima comunque pensavamo di fare il Capodanno qua al convento di Lonato. Esatto, perché l'anno scorso l'abbiamo fatto qua. Ah, ok, quindi avete mantenuto la tradizione. E ho fatto il cenino, però. Ah, cenino, quindi siete riusciti a trovare ancora posto. Diciamo. L'ultimo. Proprio l'ultimo. Ultimissimi, bravi. Avete chiuso il cerchio, avete chiuso le porte. Quanti siete? Solo voi quattro? C'è anche... Siamo noi quattro, buoni. Ah, basta, voi quattro e basta. Noi, bravi. Bravi. Buoni, diciamo. E da Tenerife quanto siete stati là? Quando siete partiti? Siamo partiti venerdì scorso, il venerdì 21. 21, ok. Ah, proprio Natale, tutto avete fatto. Abbiamo fatto Natale là. Non era la tradizione, però è... Infatti la domanda che volevo fare è quante ve ne hanno dette i vostri che non siete stati a casa? Ma i nostri no, non tanti, tanti. Però ci hanno mandato il panettone. Ah, sì, addirittura. Viaggio. Vi hanno mandato il panettone con un bigliettino con scritto: questo è un augurio per dire che state bene dove siete. State ancora là. Esatto, state ancora là. Allora, con questo, per l'anno prossimo programmiamo il Capodanno. Ah, ok, bravi. La data, così almeno vi fate il Natale a casa. Ma eravate voi quattro anche a Tenerife o il gruppo è cambiato? Eravamo noi tre. Lui non c'era. E come mai la scelta di Tenerife? Tenerife sono stato io 2 anni fa e come clima, come tutto, penso che sia la meta migliore per tutti gli italiani. Sì? Sì. Cosa perché dovremmo andarci? Tenerife come clima, prima cosa, e poi come spese, come... Come costo della vita, certo. Ok. Ma c'è. Avete incontrato qualche italiano che non fosse in vacanza? Un sacco di italiani. Sì, ma che non fossero in vacanza. Ah, ci sono. Un sacco. Quindi qualcuno che ha scelto di vivere là. Quanti ragazzi che l'hanno trovato? La prima comunità intera di italiano. Però, come il 90% il loro fatturato è per la ristorazione, e il 90% della ristorazione è curato da italiani. Quindi chi si è fermato lì è per il discorso alberghiero, ristorazione. Ristorazione, certo. Interessante, veramente interessante. Io consiglierei veramente a tutti di... Non dico di trasferirsi, però... Vabbè, insomma, di vederla, di visitarla. Bravi. È da visitare. Considerare come una vacanza. Bravi. E nella vita cosa fate? Studiate ancora? Lavorate già? Io e mio fratello ho 8 anni, come metalmeccanici. Stessa azienda? Stessa azienda. Ah, con l'azienda di famiglia. No, non di famiglia, no, però... Di famiglia. Ah, ok, lavora anche lui e via ereditati. Invece ha una ditta di marmi. Tua? Roberto, sì. Cavolo, bello. Tosto, ma bello, bravo. In bocca al lupo, e tu? Io ho iniziato da poco in una ditta metalmeccanica. Ah, metalmeccanica, quindi siete comunque... Avete tutti a che fare con cose dei manuali, ecco. Lavori manuali. E voi due, da cosa vi... come facciamo a riconoscervi? Che uno è io. Come facciamo a distinguervi? Le ragazze potrebbero distinguervi dagli occhiali. Li hai sempre avuti gli occhiali? Lui li ha sempre avuti, però dalle elementari. Ah bene, quindi dalle elementari in avanti c'è un modo per differenziare. No, perché effettivamente se gli togli gli occhiali comincia a diventare un casino, Saremo uguali. Comincia a diventare un casino a distinguere. Diciamo che era la base. No. Ma siete, no aspetta, non ho capito se siete gemelli. Siamo gemelli fratelli. Gemelli fratelli. Quanto avete di differenza? 15 minuti. 15 minuti, ah perfetto. No, chiedevo se magari c'era. No, 15 minuti. L'unica differenza diciamo che è proprio il portare gli occhiali. Ma è genetico o è casuale che vi siate? No, è casuale, credo. Beh, non avete parenti altri gemelli? Siete i primi. Siamo i primi. Primi dell'albero genealogico. Esatto. Bellissimo. Beh, vedo. Penso che non potremmo avere gemelli, però. Non penso, esatto. Tra due generazioni. Potrebbe tornare. Certo. Beh, mi piace perché avete un bel rapporto. Si vede che c'è. No, certo, c'è intesa, c'è feeling. È un rapporto stretto, diciamo. E poi magari qualche volta ve la potete giocare lo scambio di persona in occasioni utili. Sono tutte le ragazze. Occasioni utili. Ci può stare. È capitato soprattutto in vacanza, diciamo. Sì, è capitato. Ci sta di approfittare ogni tanto. Mi spiace avere rubato un attimo agli altri due ospiti, però. È interessante. Non si conoscono anche loro. È interessante. Non capita spesso. E no, io volevo parlare con l'aziendalista, con l'imprenditore. E no, beh, volevo un attimo capire come vanno le cose. Perché marmo significa edilizia o anche significa qualcos'altro? Significa soprattutto edilizia. Ah, ok, e infatti lì volevo arrivare perché si sa che. Poi là, scusate, sono le mie cugine queste. Sono le mie gemelle. Sono le mie gemelle. Dopo. Mamma, che bello. Mamma mia. Scusate, ho avuto un attimo di distrazione. Torniamo a te. No, non ce la faccio. Tornare a te. Mi sono girato un attimo. Mi sono girato un attimo e ho detto. No, vabbè, aspetta che rimango. Spettacolo. Sono spettacolari. Mamma, guarda questo. Sono spettacolari. Quest'ora non è. No, io vedo del marmo, vedo quattro. Io ho visto quattro coni di marmo, più che coni sferici. Sì, vedo del marmo. Sono, tra l'altro, ce le ha portate lui, lo ringraziamo perché sono due sculture storiche. Sono due sculture che ha ideato lui, mobili. Spazio alla storia. Esatto, perdonatemi, ma si sa, la carne è debole, soprattutto alle 3:29 del mattino. Anche solo la carne è debole. No, dicevo, tornando a noi, argomenti interessanti. No, a parte gli scherzi, come sta andando? Perché l'edilizia si sa che in Italia si fa un po' fatica. Tu come mai ti è venuta? Cioè, nel senso. È una cosa di famiglia, Cosa di famiglia da almeno 40 anni. Una tradizione, ok. Noi continuiamo tra fratelli, è chiaro che adesso è molto più difficile. È dura. Però non si molla. Bravo, mi piace questo spirito. Questa è la cosa importante. Sempre comunque addosso. Bravo. Mi piace. Giusto questo. Il tuo spirito combattivo. Tu invece cosa hai studiato di bello? Hai studiato anche tu? Meccanica. ITIS, quindi ti trovi in quel mondo lì. Va bene, dai ragazzi, allora approfittate se volete del microfono qualche secondo, se volete dire qualcosa, mandare un messaggio, salutare. Salutiamo tutti, soprattutto vorremmo ringraziare il convento perché come secondo anno per il capodanno siamo ancora qua. Bene, bravi. Tutti quelli che ci conoscono dal nostro paese. I nostri amici a Amsterdam. Tutti i nostri amici sono stati un gruppo ad Amsterdam. Amsterdam, un gruppo che ha fatto il capodanno a Amsterdam. E reduci da Tenerife siamo noi alla fine. Beh certo, siete sempre voi, assolutamente. Ringraziamo sì. Voi del convento. Ma, e i nostri amici di Amsterdam. Grazie a voi, ne siamo qua per questo. Ringraziamo Ivana, accompagnato in questo che diciamo è una nostra amica tra virgolette perché tramite un conoscente ci ha mandato qua. Ah, ok, bene. Allora la salutiamo e la ringraziamo anche noi. Grazie a te. Vi auguro anch'io buon divertimento e buona festa. C'è ancora un po' da ballare, quindi divertitevi, godetevela. Grazie e in bocca al lupo per tutto. Grazie a tutti, buon anno a tutti. Ciao. Ciao.